Vuoto Antonio, Vuoto Antonio, italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Una buona giornata, gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a Vota Antonio, trasmissione con la quale, come sempre, cerchiamo di farvi capire come la rete cambia la politica e come voi potete cambiare la politica con la rete. Questa puntata la considero particolarmente importante perché è la puntata di fine anno ed è una puntata che vogliamo dedicare a una sorta di guida alle elezioni, cioè che strumenti vi offre la rete internet per orientarvi. Io vi ricordo come sempre i nostri contatti: votaantonioR24 è l'account Twitter, votaantonio@radio24.it è l'email. Se volete trovate anche me su Twitter, Simone Spetia, si scrive con la T. E abbiamo anche naturalmente una pagina Facebook. Una prima, se vogliamo, raccomandazione iniziale, poi più avanti andremo a vedere quali sono gli strumenti che appunto si possono trovare in rete. Faremo anche il punto con Stefano Folli su quello che ci dobbiamo attendere appunto nei prossimi 2 mesi, che saranno 2 mesi di campagna elettorale. Allora, la raccomandazione generale è una sola: la rete vi mette a disposizione strumenti straordinari per tenere sotto controllo, verificare l'attività dei politici, non solamente quelli nazionali, ma anche per esempio l'attività del vostro comune, della vostra regione. Avete questi strumenti, ma avete anche uno strumento diretto, attivo. Sempre più trovate le istituzioni e i politici sui social network, in rete. Potete anche solo reperire facilmente le loro email. Ebbene, usate questi strumenti perché è nel vostro diritto. Fatelo in maniera intelligente, non per insultare, perché in tal caso non riceverete risposta, ma solamente ostilità. Fatelo per chiedere, per informarvi. E se non ricevete risposta, insistete e fate circolare la notizia che la risposta non arriva. Spingeteli voi stessi, spingete i vostri politici, spingete le istituzioni a non utilizzare la rete come un mero strumento di propaganda. Di propaganda, vi assicuro, nei prossimi 2 mesi anche in rete ne vedremo tantissima, ma fate sì che lo utilizzino come modo per migliorare la relazione con voi, con i cittadini. E poi c'è un appello anche a loro, ai politici che eventualmente ascoltino questa trasmissione. Se è la cosiddetta antipolitica che volete sconfiggere, che temete, se volete ridurre le distanze tra le persone e il cosiddetto palazzo, avete in mano degli strumenti pazzeschi, non vi resta che utilizzarli come si deve. In questa seconda parte di Vota Antonio, e bentornati naturalmente, ci occupiamo come sempre della settimana politica, cerchiamo di fare un punto. È stata una settimana politica particolarmente importante, come sapete, perché il Presidente del Consiglio Mario Monti ha sciolto le riserve, se così possiamo dire. Comunque ha detto che insomma saliamo in politica, questa è l'espressione utilizzata. Non solo, ci sono molti altri elementi di cui discutere, quindi il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Qualcuno ha scherzato, ha detto, insomma, sarebbe stato più efficace come slogan invece di saliamo in politica, montiamo in politica, che insomma c'era anche il gioco di parole. Però a tutti gli effetti Monti è in campo, però con qualche ambiguità, a dire il vero, nel senso che non si è capito bene che cosa vuole fare, se vuole, insomma, si mettono insieme queste liste, però insomma non, un ruolo politico non proprio definitissimo, ecco. Guarda, l'ambiguità è nella situazione, perché è un Presidente del Consiglio in carica per l'ordinaria amministrazione, che vuole impegnarsi, che vuole essere più che disponibile, diciamo, a continuare nella sua opera di governo. Mi sembra che sia questo il suo obiettivo, molto più del Quirinale, no, di cui si era favoleggiato. È governare che gli interessa, e non un ruolo che sarà poi deciso dalle elezioni. Questo è abbastanza chiaro. Quello che non è chiaro, naturalmente, è che cosa c'è dietro Monti, come sarà questo partito, questa lista, questa aggregazione di partiti che lo sosterranno, ed è questo che determina una certa ambiguità della situazione. Io penso, spero che le cose si chiariscano al più presto, perché gli italiani hanno bisogno di sapere, di conoscere, e non basta dire l'agenda Monti. L'agenda Monti è un simbolo, diciamo, è un modo di esprimersi, ma diciamo, siamo ancora all'interno, diciamo, di un certo tipo di comunicazione politica, qui bisogna trovare il modo anche di parlare chiaro agli italiani. Stefano, c'è anche chi dice, insomma, l'aggregazione tiene dentro l'UDC per Ferdinando Casini, Italia Futura di Montezemolo, insomma, non è proprio tutto questo nuovo. Io penso che il successo di Monti come rappresentante di una classe dirigente seria che si occupa degli interessi generali è legato al fatto che nasca una formazione che sia adeguata a questa ambizione, perché l'ambizione di Monti è molto alta, ambisce ad avere almeno il 20% e condizionare quindi il prossimo Parlamento e la prossima maggioranza, magari probabilmente in, diciamo, accordo post-elettorale con il partito di Bersani, però diciamo emendato dalle sue frange di sinistra. Ecco, tutto questo però richiede che ci sia una formazione realmente innovativa nelle persone, nel modo di parlare al paese, nel modo di porsi proprio in termini politici. Questo ancora non si vede, però certo non può essere soltanto un'aggregazione di vecchie sigle. Questo naturalmente, tra l'altro, a proposito di nuovi modi di comunicare, lo segnaliamo perché poi la trasmissione si occupa di questo, come sapete il Presidente del Consiglio con l'account Senatore Monti è arrivato su Twitter, ha tra l'altro, giusto l'altro ieri, iniziato a seguire un po' di persone, insomma l'attenzione si è concentrata su questo, naturalmente attendiamo che poi dell'uso di questi mezzi, dei social media, si faccia un uso, vale per Monti, l'abbiamo detto anche per tutti gli altri politici, un uso vero, insomma, in un social media, in un social network, ci si aspetta anche una risposta, un dialogo, altrimenti diventa solamente un megafono e sostanzialmente propaganda. Stefano, verrei proprio al Partito Democratico a questo punto. In realtà, insomma, ieri abbiamo assistito a questa conferenza stampa del segretario del PD Pierluigi Bersani, affiancato da Piero Grasso, il procuratore nazionale antimafia. È un elemento interessante questo fatto che continuino ad affluire magistrati nelle file della politica. C'è chi ha molti dubbi sull'opportunità, su se questo sia davvero opportuno oppure no, insomma, anch'io, Franca, per quanto conta, insomma. Forse il problema dell'opportunità è il minimo, perché insomma la sfera della politica e la sfera della magistratura dovrebbero stare, diciamo, su piani un po' diversi, francamente. Soprattutto si tratta di personaggi che hanno una forte visibilità per il lavoro che svolgono, spesso anche meritoriamente, come il caso di Grasso. E trasportare immediatamente questa notorietà sul piano della politica non fa proprio una bella impressione. Però io penso che il punto di fondo sia questo, che uno può candidarsi, però si candida e se eletto lascia la magistratura, cioè l'abitudine di prendere un'aspettativa e poi tornare in magistratura una volta finito l'incarico parlamentare, a mio avviso è profondamente negativo e dà un pessimo segnale al paese. Se uno sceglie la politica e il Parlamento fa una scelta nobile, ma deve a questo punto, a mio avviso, tagliare i ponti con l'esperienza della magistratura, proprio perché per mantenere la distinzione fra le sfere. Sì, anche perché poi se no rischia di ritrovarsi a giudicare su fatti che riguardano politici quando nel caso non andasse bene l'avventura politica o quando finisse la legislatura, e poi il dubbio sulla terzietà del magistrato resta. Ma si mescolano troppe cose, le cose non vanno mescolate, le cose vanno tenute distinte. E poi aggiungo una cosa, noi abbiamo bisogno di una riforma della magistratura che dia più efficienza a questo organismo, che di efficienza ha ben poco. Ecco, questo è un problema politico serio. Naturalmente, come si fa a immaginare una riforma della magistratura nel prossimo Parlamento, con il prossimo governo, se saranno, diciamo, troppi i magistrati che stanno con un piede in Parlamento o con un piede nella magistratura? Un'altra ragione per mantenere distinte i due ambiti. Verrei, poi andiamo magari a quello che ci dicono, quello che ci hanno detto i sondaggi nelle ultime ore, verrei una piccola chiosa naturalmente sempre sul PDL, su Berlusconi in particolare e su quello che sta succedendo a livello televisivo. C'è stata una sorta di alzata di scudi dopo questo diluvio di presenze televisive e radiofoniche, a dire la verità, anche di Silvio Berlusconi, con appunto questa strategia che non abbiamo ancora capito se è una strategia oppure no, se è volontà, come ci siamo detti la settimana scorsa, di far caciara o altro. Certo è stato durissimo con Monti Berlusconi. Beh, vabbè, perché Berlusconi si è reso conto che di essere in una posizione molto debole, che Monti gli ha portato via sostanzialmente tutta invece la posizione tipica del partito, del PDL, del partito di centrodestra. Insomma, il PDL in Italia che cos'è se non un'espressione del Partito Popolare Europeo? È un partito, diciamo, moderato, conservatore, molto legato all'Europa, che sta dentro la cornice del Partito Popolare Europeo. Questo ce l'ha detto Berlusconi per anni. Adesso improvvisamente Monti gli ha preso tutto questo spazio. E quindi Berlusconi è messo ai margini rispetto a questo, e quindi il suo gioco è di estremizzare, di radicalizzare le posizioni, di attaccare in maniera furibonda Monti. Vedremo se tutto questo porterà dei risultati elettorali, io ne dubito. Ne dubiti fortemente. Allora Stefano, verrei a chiederti, per quanto sia naturalmente difficile, soprattutto in questa fase, di aiutarci a fare qualche proiezione su questo 2013 entrante, che naturalmente sarà l'anno del voto. Iniziano naturalmente a circolare i primi sondaggi e il sospetto abbastanza forte, che in realtà avevamo già espresso in altre occasioni da questi stessi microfoni, è che alla fine al Senato si arrivi ad un pareggio. E che scenario si potrebbe prefigurare in quel caso? Perché non è chiaro, tu dicevi un accordo di Monti con il PD? In effetti il 2013 ha solo questo grande interrogativo, in questo momento ne ha tanti, ma questo in modo particolare. Il prossimo Parlamento sarà governabile oppure no? Perché se il prossimo Parlamento non è governabile, nel senso che emergeranno forze fortemente antisistema, non dico solo Grillo, che avrà sicuramente un grosso successo, ma un Berlusconi che sta imitando Grillo, diciamo così, per anche lui concorrere sul piano dell'antisistema, e questo può determinare una ingovernabilità sostanziale. Se c'è un pareggio tra Camera e Senato, per cui le due Camere non esprimono la stessa maggioranza, però al Senato, dico per dire, per esempio, questa lista Monti, questa coalizione Monti, se ci fosse e se ottenesse, diciamo, di avere una sorta di posizione di riguardo al Senato, beh, in questo caso l'alleanza fra il centro di Bersani e questa lista, che poi è europeista, no? Ispirata all'agenda europea di Monti, ma perché non possono fare una coalizione, possono fare un'alleanza di governo e tenere il baricentro del prossimo governo su una linea di realismo, e questo renderebbe il Parlamento governabile, anzi forse più governabile di altre esperienze del recente passato. Naturalmente, grazie anche per questa settimana Stefano Folli. Noi ci ritroviamo tra un attimo, abbiamo raccolto alcune interviste, come si diceva già in apertura, per cercare di darvi qualche strumento per scegliere meglio, strumenti che potete trovare in rete per scegliere meglio in vista delle elezioni che, come abbiamo detto, sono il grande appuntamento del 2013. Grazie Stefano, buona giornata. Ciao, auguri a tutti. Ed eccoci in questa terza parte della trasmissione. L'argomento, iniziamo ad entrare nel cuore dell'argomento che vogliamo affrontare in questa puntata di fine anno. Vogliamo cercare di darvi, come abbiamo detto all'inizio, una sorta di guida alle elezioni, per così dire. Insomma, ci si avvia a votare, come sapete, in febbraio. Ebbene, cercheremo di capire come tracciare i nostri politici su internet, capire che cosa fanno. Vedremo anche i siti nei quali potete trovare le promesse mancate o anche le promesse mantenute, naturalmente, i posti dove si fa fact checking su quello che dicono e su quello che poi effettivamente fanno, e anche sulla loro attività parlamentare. Però iniziamo da una guida più generale, per così dire. Saluto Alberto Nardelli. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Allora, un una questione più generale. Perché? Perché Alberto Nardelli vive a Londra, è il fondatore di una startup che ormai non è più tale in realtà, che si chiama Tweetminster, che adesso ci spiegherà esattamente in che cosa consiste, e di un suo spin-off, insomma un altro braccio di Tweetminster che si chiama Elezionista, che è quello che poi interessa a noi dal lato delle elezioni italiane. Allora, innanzitutto, Alberto, spiegaci cos'è Tweetminster e che cos'è Elezionista. Tweetminster è una piccola società che abbiamo lanciato 4 anni fa. Inizialmente abbiamo creato uno strumento molto semplice per trovare parlamentari su Twitter in Inghilterra. All'epoca ce n'erano solamente 4, oggi sono più di 400. E poi dopo un po' abbiamo pensato che c'era molto valore nei dati di Twitter e ci sarebbe stato sicuramente interesse da un punto di vista mediatico attorno alla politica in modo più generale su Twitter. Quindi abbiamo iniziato a sperimentare e creare servizi intorno alle elezioni del 2010 e poi dopo le elezioni abbiamo iniziato a creare strumenti più professionali e commerciali per monitorare trends politici ed economici in giro per il mondo, e Tweetminster è nato da quello. Elezionista invece è nato inizialmente come un servizio per la BBC, per monitorare elezioni in paesi dove il servizio BBC World seguivano queste elezioni in lingue oltre all'inglese, e poi loro ci hanno dato il permesso di poter creare un servizio pubblico leggermente meno complesso, però comunque da un'introduzione alla politica in oltre 100 paesi, e quindi è un servizio che abbiamo creato anche grazie a loro. Chiaramente, vi ricordo che lo trovate naturalmente sia Tweetminster che Elezionista, li trovate ovviamente su Twitter, sarebbe sciocco se non ci fossero, e ci sono anche dei siti www.elezionista.com, e poi da là potete selezionare l'Italia. Selezionando l'Italia, che cosa ci troviamo di fronte, Alberto? Noi per tutti i paesi quello che facciamo è raccogliamo tutti gli account Twitter di politici, giornalisti politici, commentatori e partiti, e quindi sono tutti i tweet di questi personaggi, e poi guardiamo all'interno di quelle conversazioni quelli che sono i links che condividono di più, chi sono gli individui che twittano di più, che sono più menzionati, i trends. Quindi è un modo per seguire in modo semplice quello che sta succedendo attorno alla politica su Twitter in qualsiasi paese, ed è soprattutto utile intorno a campagne elettorali, perché puoi vedere annunci o quando ci sono notizie appena accadono, e soprattutto il giorno delle elezioni. Alberto, e poi c'è anche la parte dei sondaggi, insomma, se si vuole stare informati sui sondaggi c'è anche questo aspetto. Sì, da poco, oltre a analizzare dati sociali su Twitter e altre piattaforme sociali, abbiamo anche iniziato a fare analisi di sondaggi, e quindi facciamo ogni settimana pubblichiamo la media dei sondaggi dei paesi dove si stanno avvicinando le elezioni, quindi in questo caso la media dei sondaggi italiani accompagnati ad un'analisi dei diversi sondaggi, perché intorno ai sondaggi si crea molto rumore. L'errore che spesso si fa è che analisti prendono un sondaggio per cercare di parlare di un trend che loro vogliono in qualche, per qualsiasi motivo mettere in risalto, quando in realtà si dovrebbe sempre guardare l'insieme dei sondaggi per capire i trend generali, cosa che ad esempio ci ha insegnato molto bene l'elezione americana, perché quando si prende solo un sondaggio è molto semplice scegliere un dato come se stesse scegliendo un frutto da un albero, ignorando il resto dell'informazione. Quindi cerchiamo di dare analisi di sondaggi guardando i tanti sondaggi che vengono pubblicati nel loro insieme. Grazie ad Alberto Nardelli, quindi tenetevi anche questa naturalmente come fonte di informazione per quanto riguarda quello che succede intorno al mondo della politica, e come avete sentito è qualcosa che vi può interessare anche per guardare a prossime elezioni future, anche naturalmente in altri paesi. Grazie Alberto, buona giornata. Buona giornata. Dunque, fatto con Alberto Nardelli il quadro di quello che potete trovare come pura informazione, anche per esempio, come si diceva, a livello di sondaggi, andiamo un po' più dentro i contenuti di quello che ci dicono i nostri politici. Come vi abbiamo detto all'inizio, tra gli strumenti che potete utilizzare c'è ormai anche quello del contatto diretto, le pagine Facebook dei politici, gli account Twitter, naturalmente le email, quelle esistono da un bel po' di tempo, e però c'è anche chi si occupa di verificare direttamente in rete quello che fanno e quello che succede. Dal lato dell'attività c'è per esempio Open Police, ne parleremo più avanti, ma adesso ci vogliamo occupare di due facce della stessa medaglia, se così possiamo chiamarle, fact checking, cioè controllo dei fatti, e promise checking, ossia controllo delle promesse. Saluto Marco Govoni di Bacheca Politica, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. E Daniele Bernardin di Pagella Politica, buongiorno Daniele. Un buongiorno a tutti quanti. Allora, vediamo di capire che cosa fate. Allora, sono due siti innanzitutto, giusto per essere chiari, Pagella Politica e Bacheca Politica. L'aggettivo è lo stesso, ma si tratta di due cose diverse. Inizierei da Marco Govoni con Bacheca Politica, che di fatto va a verificare le promesse fatte, se sono state realizzate oppure no. Sì, esatto Simone, bachecapolitica.it appunto misura le promesse dei politici italiani. Quindi è una piattaforma web che molto semplicemente raccoglie quelle che sono le promesse che chiunque può inserire, e noi poi ci appiccichiamo un timer per capire quanto tempo passa dalla promessa alla sua realizzazione o meno. Mm. E come vi è venuta l'idea? Da cosa è nata, insomma? Un semplice spirito civico o... Ma diciamo, l'idea è nata un po' per gioco, nel senso che io leggendo un quotidiano online ho visto un banner con una dichiarazione di un politico al quale era stato appunto attaccato un timer per vedere quanto tempo sarebbe passato dalla sua realizzazione. La cosa mi è piaciuta e ho detto perché non la facciamo poi per, la estendiamo per tutte le promesse dei politici. E quindi con alcuni ragazzi abbiamo deciso di mettere in piedi una vera e propria piattaforma per farla diventare poi uno strumento che possa avere anche una sua utilità, ovviamente. Adesso ritorneremo a te, Marco, per parlare di qualche promessa, perché vogliamo qualche dettaglio, vogliamo che ci racconti qualcosa fuori i nomi, come disse quello, finché possiamo, perché poi a un certo punto arriverà la par condicio che ci ammazzerà presumibilmente. E però voglio prima parlare con Daniele Bernardini invece di Pagella Politica, che è il controllo sui fatti sostanzialmente. Daniele? Sì, esatto, è un piccolo esperimento che è nato recentemente, ormai siamo in giro sul web da inizio ottobre, quindi è un esperimento abbastanza giovane che ha preso spunto da vari esperimenti americani, che furono i primi di controllare appunto i fatti dei politici e le loro dichiarazioni, ed è semplicemente quello che ho detto, un controllo dei fatti che vengono messi alla luce con la dichiarazione, vengono paragonati con quello che viene detto per poi vedere quanto sono attendibili i nostri politici, e ci cerca in qualche modo di basare il nostro giudizio su una loro credibilità o meno. Quindi in sostanza verifica se poi la verifica se alla dichiarazione seguono i fatti, quindi in un certo senso i due progetti sono paralleli, per così sì, dire. Diciamo che noi facciamo una cernia di dichiarazioni, vediamo se sono dichiarazioni controllabili o meno, quindi dichiarazioni che vanno semplicemente sull'opinione, non vengono controllate, quelle che si basano su dichiarazioni che si professano per essere basate su dei fatti specifici, noi li paragoniamo con quello che è successo successo realmente, viene appunto testimoniato il tutto. Questo tra l'altro è un grande tema, è una cosa della quale abbiamo parlato a lungo e altre volte in questa trasmissione. Sono cose che negli Stati Uniti vediamo, perché ci sono delle strutture in realtà relative agli stessi grandi quotidiani, agli stessi grandi media, che fanno il controllo di quello che dicono i politici in tempo reale, magari durante i talk show. Si è avuto ampio sviluppo durante il dibattito per le presidenziali americane, addirittura con un episodio di fact checking in tempo reale da parte della conduttrice in merito all'attacco di Bengasi, che è costato la vita all'ambasciatore americano in Libia. Noi a questo Libia. Proposito, durante i dibattiti sulle primarie del centro-sinistra, abbiamo fatto proprio questo, durante il dibattito live su Twitter e Facebook portavamo avanti un controllo live delle dichiarazioni dei politici per vedere, appunto, per dare, essere un mezzo per l'elettorato per giudicare meglio l'operato durante il dibattito. Quindi abbiamo provato ad adottare l'esperimento americano anche qui in Italia. E quindi la cosa promette grande sviluppo anche nei prossimi mesi. Voglio arrivare però a qualche esempio, iniziando proprio dalle promesse. Marco Govoni, raccontaci qualcosa e per favore cerca di sparare su vari fronti. Ok, guarda, allora potremmo ad esempio partire da qualche promessa in corso, ovvero quelle che i politici hanno fatto e sono in attesa di realizzazione o meno. È chiaro che poi avvicinandoci al periodo delle elezioni queste aumenteranno notevolmente. Le prime che mi vengono in mente sono ad esempio Bersani quando dice se vinciamo subito una legge sul conflitto di interessi, quindi questa promessa andremo poi a verificare se si sarà mantenuta o meno. Altre promesse sempre in corso, possiamo prendere ad esempio una promessa molto recente, quella di Chino, quando dichiara il PD sposi l'agenda del Premier o non corro, quindi anche le alleanze viaggiano su questo filone delle promesse. Per andare a vedere invece quelle mantenute o non mantenute, potremmo fare ad esempio prendere come esempio il Movimento 5 Stelle, una promessa mantenuta quando Grillo appunto ha dichiarato la scelta di candidati online, cosa che hanno fatto recentemente, che ha avuto anche un buon successo. Allo stesso tempo però possiamo andare a vedere una promessa che invece il Movimento 5 Stelle non ha mantenuto, quindi appunto per rimanere nella stessa linea, quando Grillo appunto dice che ha detto che non avrebbe cacciato nessuno. Sappiamo invece che ultimamente con Favia c'è stata questa promessa non è stata appunto mantenuta, è stata smentita dai fatti. La cosa che devo dire trovo veramente divertente è il fatto che ci sia un counter soprattutto questo, cioè un conteggio di in quanto tempo ci si è messo a mantenere o non mantenere la promessa, perché è anche un elemento di verifica importante, insomma, no? Esatto, io vedo qua nella parte non mantenuta del vostro sito c'è un Berlusconi che dice non mi candido a Premier, non mantenuta in 40 giorni, o un Maroni che dice facciamo l'election day, non mantenuta in 2 giorni, insomma. Certo. No. Cioè, diciamo, il timer è una componente molto importante perché permette di capire quanto tempo è passato. E un'altra componente importante è l'indice di gradimento delle promesse. Infatti su ogni promessa l'utente può cliccare il fatto che gli piaccia o meno. E questo a mio avviso è anche un feedback molto importante per chi ha fatto quella promessa. Infatti poi il sogno sarebbe che qualche politico abbia il coraggio di inserire le proprie promesse del proprio partito politico per ricevere feedback dalla gente, e possiamo vedere che i feedback sono estremamente vari, quindi non ce n'è uno che prevale su un altro, quindi significa che il meccanismo piace e funziona. Tra le altre cose segnalo, perché insomma lo sapete, sotto gli occhi di tutti, questa non mantenuta in 14 giorni, la promessa era Polverini, entro la settimana saprete la data del voto per la Regione Lazio, mentre invece poi ci si è messo in mezzo il TAR, non solo, insomma è stata anche lei, la stessa governatrice, che come dire, ci ha messo del suo con qualche ritardo. Daniele Bernardin, vogliamo venire a te invece con qualche esempio di fatti controllati e insomma che sono risultati o falsi o veri. In realtà avete 5 gradazioni di verità, insomma, nel vostro, anche piuttosto divertenti, perché c'è vero, c'eri quasi, ni, Pinocchio andante e panzana pazzesca. Esatto, diciamo che una cosa che ci contraddistingue è un po' l'umore, lo spirito con cui facciamo il tutto, cerchiamo di dare al tono serioso delle dichiarazioni un'accettazione un po' più simpatica, quindi il panzana pazzesca proprio si riferisce a questo. E su casi specifici intanto volevamo dire che siamo appena partiti, quindi fare dei giudizi in generale su quale politico vada bocciato o promosso, visto anche il titolo Pagella Politica, è ancora molto difficile da fare, perché basandoci su fatti stiamo aspettando un numero di dichiarazioni un po' più ampio e scientifico. Su dichiarazioni e politici che ci fanno divertire più degli altri, è ovvio che vanno di pari passo con la personalità dei politici, quindi Silvio Berlusconi e Beppe Grillo, per dirne due su tutti, che per personalità sono personalità molto carismatiche e quindi ogni tanto si lasciano a dichiarazioni un po' più creative, se possiamo definirle così. Dall'altro è ovvio che ci sono certe personalità, e in primis quelle del governo tecnico, che per definizione dovrebbero essere più tecnici, che invece è molto più difficoltoso trovare dei piccoli problemi in quello che dicono, perché essendo studiosi, esperti delle varie materie per cui sono chiamati a rappresentare il paese, dicono cose che oggettivamente sono difficili da ovviamente da e tra l'altro fanno anche meno campagna elettorale naturalmente, quindi come dire, hanno anche meno bisogno di raccontarle. Esatto, oddio, una cosa che abbiamo notato è che in queste settimane, con la ridiscesa o no in campo dell'ex premier Silvio Berlusconi e comunque una campagna elettorale che si sta riavvicinando, i toni si stanno alzando e anche le dichiarazioni importanti e coraggiose, perché molto facile da controllare, stanno aumentando, quindi il lavoro sta aumentando anche in vista della campagna elettorale e anche in vista delle elezioni. Avrete da lavorare e avrete da divertirvi. Io ve ne cito qualcuna che trovo qua sul sito. Alcune riguardano il ministro Severino e sono piuttosto tecniche, quindi anche, come dire, difficile che il ministro Severino, che è avvocato di grido, si sbagli in dichiarazioni sui temi che la riguardano. C'è in home page un Vendola che dice che sotto Berlusconi, che l'Italia nella sua storia ha conosciuto il picco della pressione fiscale, che in realtà non è vero. Vediamo un Beppe Grillo, per esempio, che dice che per la prima volta l'Italia va a votare anticipatamente senza che il governo in carica sia stato sfiduciato dal Parlamento. In realtà questa era una cosa che era già avvenuta. Grazie a Daniele Bernardin di Pagella Politica e a Marco Govoni di Bacheca Politica. Buona giornata a tutti e due. Noi ci fermiamo, c'è la viabilità, ci ritroviamo subito dopo e parliamo di un altro progetto di verifica, se vogliamo anche più approfondita, su quello che fanno i nostri parlamentari, non solo loro, un grande progetto che va avanti da anni e che io trovo straordinario per la profondità che ha, che è Open Policy. Come vi dicevo poco fa, in questa ultima parte prendiamo un altro strumento, in quella che abbiamo voluto chiamare una guida sul web alle elezioni, cioè come orientarvi, come cercare di capire che cosa fanno i vostri politici, anche per andare più in profondità sulle vostre scelte di voto, fare una scelta veramente consapevole quando andate alle urne. Speriamo di riuscirci, di esservi di aiuto. E come vi dicevo prima della viabilità, parliamo adesso di uno strumento che io giudico straordinario, letteralmente. Si tratta di Open Policy, è un sito nel quale trovate una quantità di informazioni pazzesca sui politici in attività. Progetto che è iniziato ormai qualche anno fa, ci trovate per esempio Open Parlamento, che serve a informarsi, a monitorare l'attività dei parlamentari e non solo, tantissime altre cose. Vincenzo Smaldore è uno dei fondatori, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, ci dia innanzitutto una mano ad orientarci in questo mare di informazioni che fornite. Ci sono tantissime cose, tra cui ad esempio l'indice di attività dei parlamentari. Che cos'è? Diciamo che un cittadino che si vuole informare, vuole sapere di più sui politici, la loro attività, quello che dicono, quello che fanno, può andare su openpolis.it e lì trova una serie di piattaforme, di siti internet che gratuitamente lo aiutano in questo lavoro di orientamento, lo aiutano a capire i suoi rappresentanti cosa fanno. E una delle piattaforme principali è Open Parlamento, piattaforma che è online dal 2009 e che noi abbiamo dedicato appunto ai lavori parlamentari. In questa piattaforma si trovano una serie di informazioni molto molto interessanti, a incominciare ad esempio dal tasso di presenza e di assenze dei parlamentari, e questo fu una grande innovazione nel 2009, perché nessuno prima di noi era riuscito a capire effettivamente quanto i parlamentari vanno in Parlamento. Questa è una prima cosa. Questo è un elemento, no? E questo, questo è un elemento puramente, diciamo così, quantitativo, per quanto importante, perché ci dà la misura di quanto effettivamente stanno in Parlamento. E poi c'è un indice di produttività dei parlamentari. Questo mi sembra molto interessante. Come lo calcolate questo indice di produttività? L'indice di produttività invece prende in esame quello che i parlamentari fanno, quindi andiamo ad analizzare gli atti parlamentari che loro presentano e i ruoli che loro hanno in Parlamento, perché rispetto a un atto, un disegno di legge per esempio, un parlamentare può essere un primo firmatario, un cofirmatario, un relatore, quindi noi analizziamo queste cose e riusciamo a definire effettivamente quanto un parlamentare pesa all'interno del Parlamento. Quanto riesce a fare? In questa particolare classifica il primo è Donato Bruno del PDL alla Camera, stiamo dicendo, il secondo Antonio Borghesi dell'Italia dei Valori, poi c'è Franco Narducci del Partito Democratico, Pierpaolo Baretta del PD, Stefano Stefani della Lega, il primo tra i senatori è Carlo Vizzini, il secondo è Lucio Malan e poi c'è Giampiero Dalia o Dalia, non mi ricordo. Non mi ricordo mai come si dica. Poi c'è Felice Casson e Stefano Ceccanti. Abbiamo dato solo i primi cinque, ma naturalmente molte altre cose le potete trovare all'interno della piattaforma. Quali altri strumenti ci potete mettere a disposizione? Mettete a disposizione di noi cittadini. Poi, insomma, so che non fate solamente questo, insomma, ma vi rivolgete anche alle aziende, per così dire. Però, insomma, quali strumenti trovano i cittadini sul vostro sito? Sì, la cosa principale appunto è quella che il cittadino trova finalmente informazioni, dati, che noi comunque ricaviamo da fonti ufficiali circa l'attività dei propri rappresentanti, e quindi vengono aiutati nel loro giudizio, nel capire come stanno lavorando. E questo noi lo facciamo attraverso una serie di piattaforme web che prendono in considerazione anche i diversi livelli informativi e istituzionali. Ad esempio con Open Parlamento ci occupiamo del Parlamento nazionale, la stessa cosa abbiamo cominciato quest'anno a farla anche sui comuni, con una nuova piattaforma che si chiama Open Municipio. Quello è interessante. Infine io vorrei andare su quello che mi sembra uno degli elementi più interessanti in assoluto per capire chi siamo. È una sorta di test su chi dovremmo votare, si chiama Voi siete qui. Che cos'è e in cosa consiste? Voi siete qui è un test politico-elettorale di orientamento al voto, in cui noi andiamo a individuare dei temi dirimenti delle campagne elettorali, poniamo delle domande ai candidati chiedendo di posizionarsi secondo uno schema che va da sono molto favorevole a sono molto contrario, e in questo modo poi il cittadino risponde alle stesse domande posizionandosi anche lui allo stesso modo, e quindi in automatico viene calcolata la prossimità fra le posizioni del cittadino che ha fatto il test e quelle dei candidati, quindi è uno strumento che può aiutare i cittadini a capire qual è il politico, il partito più vicino alle sue posizioni, quindi andando al di là di talk show, al di là di anche schieramenti ideologici, noi prendiamo in considerazione i programmi elettorali, le cose che concretamente si vogliono fare. La prossima edizione di Voi siete qui sarà ovviamente per le prossime elezioni politiche. Naturalmente. Grazie anche a Vincenzo Smaldore, che è uno dei fondatori di Open Polis e che ci ha raccontato come funziona. È naturalmente www.openpolis.it. Vi ripeto che probabilmente vi ci perderete là dentro se siete minimamente interessati alla politica, ma soprattutto quando andrete ad esprimere il vostro voto, magari su gente che si ricandida, insomma, e quindi avete modo di verificare come ha lavorato in Parlamento. Tutto più complesso ovviamente a causa della legge elettorale che non consente di votare la singola persona, però insomma un quadro generale naturalmente ve lo potete fare. Vincenzo Smaldore, grazie, buona giornata. Grazie a lei, un saluto. E Chiudiamo così questa puntata di fine anno di Vota Antonio. Vi ricordo come sempre i nostri contatti: votaantonio@radio24.it è l'email. Potete trovarci, ci trovate naturalmente su Facebook Vota Antonio R24 o su Twitter anche là Vota Antonio R24. Trovate anche me su Twitter se volete, Simone Spetia. Un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Buona giornata.